visti da fuori. Buongiorno, buongiorno a Charlotte Silverstein. Pronto? Charlotte ha deciso di lasciarci proprio mentre parlavamo del paese più felice in termini non solo economici, ma proprio di soddisfazione percepita ai propri abitanti. Sei tornata con noi, Charlotte? In questo momento la stanno richiamando e forse molti hanno già capito di che paese si tratta, ce lo state, così state facendo qualche azzardo. 349-238-6666, questo è il numero a cui inviare i vostri sms, oppure 800-24-0024 per le vostre telefonate. Charlotte. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, stiamo cercando di capire i nostri ascoltatori da che paese vieni, visto che nei rapporti sulla felicità delle nazioni il tuo campeggia sempre in testa alla classifica. Il perseguimento della felicità è forse al centro degli obiettivi degli abitanti, dei tuoi connazionali? Ma secondo me si sono anche decisi che sono proprio i più felici, perché gli fanno piacere di finire sempre al primo posto. Comunque, parlando sul serio, si sa che questo della felicità dei danesi viene percepito come la sicurezza, e dobbiamo ammettere che ce n'è di più di questo nella vita, con il welfare dalla culla alla tomba in Danimarca, che si trova in Italia. E dunque Charlotte Silverstein è danese, ha rivelato la sua nazionalità, e per quali radio soprattutto fai corrispondenze dall'Italia? Di una radio che ha quasi lo stesso nome della vostra, si chiama Radio 24/7. E sei abbastanza critica sul tuo paese d'origine, cos'è che ti porta a parlare spesso nei tuoi paragoni tra Italia e Danimarca, spezzando una lancia a favore dell'Italia? Ma io soffro del sindrome del corrispondente giornalista che si trova da troppo tempo in un altro paese, ho scelto di vivere qui, però vedo anche in Danimarca che sì, dicono di essere i più felici del mondo, ma non è che ti sorridano sulla strada, non è che si parlano tra di loro nei condomini, non sprizzolano questa felicità che si trova anche in un'Italia che è ormai martellata della crisi. E a volte, tu adesso hai parlato della sindrome del corrispondente straniero, ti leggo quello che ha scritto un tuo collega spagnolo: a volte bisogna vivere fuori per guadagnarsi da vivere, questa è la situazione di molti italiani che emigrano anche con la laurea in tasca, a volte viene voglia di farlo per alleggerirsi delle nevrosi nazionali o perché siamo vinti dalla sensazione, e questa è una cosa che accomuna tutti quelli che partono, di vivere in un paese feroce. Vedi che non è una sensazione solo italiana. E tu vivi in Italia, di quali temi hai trattato ultimamente per la tua radio? Ma sicuramente l'economia, perché all'inizio dell'anno, quest'anno, si vedeva qualche segno di speranza, e devo dire che pian piano, andando avanti, il spirale negativo non si è spezzato per l'Italia, anche se ci sono delle piccole numeri, più posti di lavoro a luglio, un piccolo aumento della produzione industriale. Devo dire che qui la situazione è drammatica. Io ho girato un po', perché anche io sono in vacanza in questo periodo, sono al Lago Maggiore, giù al lungolago vedo dei bar, dei ristoranti, uno su due quasi è chiuso. La situazione è veramente drammatica, ed è di questo che si parla quando si parla dell'Italia, principalmente. Hai fatto anche delle corrispondenze relative all'Expo, cosa hai raccontato? Ma all'Expo ho raccontato che potrebbe diventare questa leva che, almeno per un punto di vista, farà all'Italia una bella figura, anche una punta di leva, l'ha detto anche l'Università di Bocconi, che ci sarà un introito di miliardi e miliardi fino al 2020 se tutto va bene. Ma ho dovuto aggiungere anche che ultimamente è venuto qui il rappresentante dell'EU, dell'Unione Europea, e ha trovato che il padiglione loro non è a un buon punto, così questo è sempre l'ansia quando l'Italia deve fare un grande progetto. Io sono qui dai mondiali del 90, è sempre l'ansia ce lo facciamo in tempo, ma non è una novità questo. Vediamo, speriamo nell'Expo. Tu hai detto che lo facciamo come se fossi italiana. Hai la cittadinanza italiana? No, purtroppo no, perché anche se la Danimarca ha la reputazione di essere un paese molto aperto, molto tollerante, è uno dei pochissimi paesi nel mondo occidentale che non permette ancora la doppia cittadinanza. Io ho lottato 10 anni perché il Parlamento danese cambia le leggi e, incrociando le dita, sembra che ci sarà presentata una legge quest'autunno che finalmente permette a me e tanti danesi in Italia e nel mondo di chiedere la cittadinanza dove abitiamo. E tu hai fatto anche pressing presso il Parlamento, le istituzioni, perché la Danimarca apra gli occhi dal punto di vista della cooperazione, l'Unione Europea in generale, su quello che sta succedendo sulle coste italiane. Sì, questo è un lavoro di Sisifo. Io anche sul mio Facebook, dove ho un seguito di 1500 che si interessano dell'Italia, abbiamo dei dibattiti su quello che succede nel Mediterraneo, sui tanti profughi e immigranti che arrivano in Italia e che vogliono, perché lo sappiamo, tanti di loro arrivare anche in Scandinavia. Non trovo orecchio sorda, è come battersi contro un muro. E capisco perché è così difficile, ti fa intervenire molto più attivamente l'Unione Europea. Quando parlo con i miei connazionali, non vedono il Mediterraneo come un problema loro, è un problema dell'Italia secondo loro. Questa è una situazione molto grave secondo me. Se ne lavano le mani in qualche modo anche dai commenti che tu ottieni sul tuo Facebook? Secondo me sì, ma lo levano anche con i numeri in mano, perché se tu guardi le cifre dei richiedenti di asilo in Danimarca nel 2013 erano più o meno 7.000, in Italia 28.000, visto che in Danimarca ci sono meno di 6 milioni di abitanti, dovrebbero essere almeno 70.000 richiedenti in Italia. Però anche per avere lo stesso livello, per avere lo stesso livello della Danimarca, sì. In proporzione, prese le popolazioni dei due stati, i danesi in qualche modo sembrano dire: noi ne abbiamo accolti ben di più in proporzione pro capite, non capiamo perché dovremmo adesso attivarci per agevolare e il libero, non solo chiaramente il libero transito garantito a chiunque arriva in Europa, ma soprattutto il riconoscimento dello stato di profugo a chi richiede asilo. E sei molto attiva tu, Charlotte, tra tutti i corrispondenti, nel far conoscere, nel cercare di far conoscere quelle che sono le istanze italiane in Danimarca, cioè nel tuo paese. Sei una sorta di ambasciatrice d'Italia, possiamo chiamarti così? Sarei onorata, però sempre nel bagaglio il discorso di cercare naturalmente di raccontare all'Italia nel modo più obiettivo, perché questo è il nostro dovere. A me piace, tu lo sai anche, mi piacciono molto i numeri, perché bisogna paragonare le cose, trovare il punto in comune per spiegare le cose, perché siamo ancora, e per fortuna, lontano da capirci perfettamente in Europa, perché il giorno in cui ci capiamo perfettamente siamo uguali e questo sarebbe una noia. In questi giorni, tra l'altro, la Danimarca è alle prese con un problema serissimo in tema di sicurezza di cibo. Cosa sta accadendo? Hanno trovato una batteria, listeria, in un salume tradizionale danese che si chiama Rullepuls, da un'unica azienda, e purtroppo il numero dei morti, dei deceduti è ormai arrivato a 13 persone, e hanno scoperto pure che, dopo che è stato scoperto da dove arrivavano i prodotti, che 40 grossisti hanno esitato di andare a riprendersi la merce, e loro devono prendersi le multe. E questa storia anche un po' per spiegare che tutto il mondo è paese, succedono anche queste cose in Danimarca. Hanno esitato non ho compreso il concetto, cioè dovevano ritirare la merce e non l'hanno fatto, conoscendo il rischio della batteriolisteria? Sì, sono stato obbligato dalle autorità, questi grossisti che vendevano questi prodotti da questa azienda dove erano state trovate la batteria listeria, però per vari motivi hanno tirato a lungo, così c'è stato il rischio, anzi si sa che i prodotti sono stati venduti anche dopo che si è scoperto che erano infettati. E cosa rischiano ora questi imprenditori? Rischiano delle multe gli imprenditori. Solo multe? Solo multe di quello che ho capito io, è così. Comunque l'azienda che ha prodotto il salume è stato chiuso e può aspettare anche delle richieste di essere rimborsato, di avere dei soldi per le persone, per i familiari che sono morti e sono ammalati. Tu sei in Italia da tanti anni, hai notato le differenze di questo paese in diversi ambiti, senza dubbio anche in quello che caratterizza la personalità dei diversi popoli. Per esempio, una mamma danese in cosa è diversa da una mamma italiana? Ah, ma lì entriamo in un discorso veramente grandissima. Se dobbiamo proprio essere duri e crudi, la mamma in Danimarca educa i figli per essere indipendenti, mentre la mamma italiana è il contrario. Cioè li educa perché rimangano sempre nella sua sfera di influenza? Che rimangano sempre un po' attaccati, che rimangano sempre un po' i cocchi della mamma. Ed è anche un contratto in Italia, perché voi non avete questo welfare di cui parlavamo. La famiglia in Italia è anche un'azienda di assicurazione, no? Voi siete obbligati a aiutarli a vicenda su e giù nelle generazioni. In Danimarca c'è lo Stato che assicura il sostenimento anche economico. E accanto allo Stato la famiglia non dà un sostegno, non fornisce un sostegno, non aiuta? Ma diciamo che proprio in questi giorni discutono molto in Danimarca, perché dal governo si vuole che la famiglia danese diventano molto più attivi nella cura, ad esempio, degli anziani. Si può leggere nei giornali danesi dei lettori che dicono: ma io mica posso venire a curare il mio babbo che è in casa di cura. In Danimarca la cura delle persone bisognose è un compito dello Stato, mentre in Italia c'è ancora questa unità bellissima e terrificante che si chiama famiglia. Famiglia e welfare, tu naturalmente vivi a cavallo delle due concezioni, e c'è una differenza incredibile anche nel sistema scolastico, visto che voi danesi venite sempre citati. Adesso non voglio fare di te chiaramente la responsabile di tutte le scelte anche dell'istruzione e dell'educazione del tuo paese, però magari puoi raccontarci quali sono le differenze basilari anche per quel che riguarda la scuola. Ma diciamo che c'è una differenza, che se tu ti trovassi in una classe nella scuola media danese credo che rimarresti scioccata del livello di rumore, ed è tutto magari legato a questo concetto che i bambini devono essere indipendenti, devono sapere fare da solo. Ma per un italiano, perché si hanno fatto anche degli esperimenti di reality show dove i maestri di vari paesi scambiano scuole. Interessante questo. I norvegesi, i svedesi, i finlandesi, quasi tutto in questo reality show hanno detto: ma c'è un livello di rumore così troppo alto nelle scuole danese, e c'è anche una mancanza di disciplina, perché questa indipendenza è chiaro che ha dei risultati anche su questo livello. E poi in Danimarca si parla molto in questo momento di una riforma della scuola che secondo gli insegnanti è stato un grosso errore, perché da quest'anno gli insegnanti devono trovarsi alla scuola 38 ore alla settimana, cioè non possono più prepararsi a casa, e questo è quasi stato una rivoluzione, che gli insegnanti devono trascorrere tutti gli orari del lavoro dentro la scuola proprio. Questo è uno esperimento e si sta ancora guardando come va a finire, come andrà a finire. Sistema educativo danese, che è considerato uno di quelli all'avanguardia nel mondo, come vedete, soggetto a sua volta a diverse riforme. Ci aggiornerai anche negli anni a venire, Charlotte Silverstein, su quello che succede anche in questo ambito. Hai un'abilità narrativa incredibile e tutti ti conoscono nella radio danese. Abbiamo voluto far sentire la tua voce in italiano anche qua, vorremmo sentire anche la tua voce in danese. Ci saluti in danese. Kan du have en rigtig hyggelig dag. E quindi cosa hai detto? spero che tu abbia una giornata che ti coccola. Molto singolare come saluto di congedo, sicuramente apprezzato. Grazie, grazie per il tuo tempo a Charlotte Silverstein, danese, Radio 24, cioè l'equivalente di Radio 24 naturalmente in questo paese, è la corrispondente che abbiamo incontrato oggi nella rubrica Visti da fuori.